Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ha sentito Grillo, sindaca? Ha sentito Grillo? E cosa le ha detto? Facciamola passare, forza. Cortese, ti andiamo. Cosa le ha detto Grillo? Parapolizze per tutti. Grillo. Parapolizze per tutti, Grillo, così ha risposto ironicamente la sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi inseguita dai cronisti dopo che ieri è stata interrogata per 8 ore dai magistrati a proposito di un'altra, di un'inchiesta, in realtà l'unica inchiesta nella quale è indagata per abuso d'ufficio e falso per la nomina del fratello di Raffaele Marra, il suo ex braccio destro. E invece sapete che poi ieri è emersa questa ulteriore vicenda, che però dicono oggi PM non ci sono elementi, rilievi penali, elementi di reato in questo, la famosa vicenda delle polizze fatte a suo favore, polizze vita fatte a suo favore da un altro suo ex braccio destro, un altro suo fedelissimo che è Salvatore Romeo. Queste polizze fatte appunto a suo beneficio, che hanno creato, diciamo, un po' di, quantomeno, delle domande, dei dubbi, degli interrogativi anche ai stessi magistrati, perché dicono: come mai lui, che era un dipendente del comune nel momento in cui lei era ancora consigliera del Campidoglio, le ha fatto queste polizze, e poi una volta che lei è diventata sindaca, la stessa sindaca lo ha promosso e gli ha quasi triplicato lo stipendio. Insomma, però per il momento appunto non c'è nessuna ipotesi di reato, però ne parleremo di molti fatti di politica di questa settimana, in particolare questo, e poi ci occuperemo, fra le altre cose, anche della vicenda di Vasto, questo caso di cronaca, tragedia nella tragedia, no? Dell'uomo che ha ucciso un 22enne che aveva investito lo scorso anno e ucciso sua moglie. Qualcuno dice: forse il paese ha fin troppo fomentato quella che era già sua un'ossessione, insomma, oltre alla disperazione, l'amore per la moglie morta, anche un'ossessione di volere farsi giustizia da solo, la vendetta. Ne parleremo. Per le vostre interazioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per gli SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Allora, prima di tutto, poi seguiremo, se riusciamo, anche un po' dell'intervista di Mentana sulla 7 alla sindaca Raggi. Allora, prima di tutto, dicevo, però, il riassunto della giornata. Roma, dopo la vicenda delle polizze a suo favore, Virginia Raggi assicura: non mi dimetto, Grillo è con me, Romeo la difende, dice le polizze le ho fatte per lei ma solo per stima, per i PM non c'è reato. Francia, è un egiziano incensurato, poi fermato, l'uomo che al grido di Allah Akbar con un coltello ha forzato l'ingresso del Museo Louvre, per il governo è un atto terroristico. Italia-Libia, accordo incoraggiante, da Malta il sostegno dei leader europei all'intesa sui migranti. Stati Uniti, Trump impone nuove sanzioni all'Iran, l'ira di Teheran, cambiano anche i rapporti con Cuba e la riforma di Wall Street. E Al-Qaeda, in un comunicato, dice: Trump è incosciente, ha acceso la fiamma della Jihad. Legge elettorale, scontro nel PD sul premio di coalizione, Orfini contro la proposta di Franceschini e Di Maio commenta: puntano ad arrivare al 2018. Polemiche sul delitto di Vasto, Orlando difende la procura, no al populismo, omicidio premeditato sarebbe l'accusa a Di Lello. Smog, nonostante la pioggia l'allerta resta alta, nuove misure a Milano e Torino. E poi il paniere dell'Istat, entra la dieta vegana e gli smartwatch. Partiamo quindi da Roma, dove in furia il Polizzagate, ma Virginia Raggi andrà avanti: non mi dimetto, dice, ho sentito Grillo, il Movimento 5 Stelle è con me. E dalla procura arrivano nuovi particolari sulle polizze vita stipulate per lei da Salvatore Romeo, sono due per la Raggi, poi altre per esponenti del Movimento 5 Stelle e impiegati del Comune, in tutto per 130.000 euro, con delle causali fantasiose tra cui motivi affettivi eccetera. Per il PM però non c'è reato, ma Romeo spiega: tra noi non c'è nessuna relazione, solo stima e amicizia. La sindaca commenta: non ho mai ricevuto soldi, la città deve rinascere, basta col gossip. Mentre il PD va all'attacco e dice: deve chiarire in aula. E tra poco, come vi dicevo, torneremo a occuparcene. La Francia adesso: è un egiziano di 29 anni, è arrivato in Francia con un volo da Doha solo il 26 gennaio scorso, l'uomo che ha cercato oggi di entrare nella galleria sotterranea del Museo del Louvre a Parigi, armato di macete, ha aggredito 4 militari che gli hanno sparato ferendolo all'addome. Ora è stato operato, le sue condizioni sono gravi, mentre i soldati sono feriti ma stanno bene. E secondo il presidente Hollande si tratta senza dubbio di un atto terroristico. Ne parliamo con Marco Mussanè, corrispondente da Sole 24 Ore da Parigi. Marco. Sì, buonasera. In realtà il procuratore della Repubblica di Parigi, François Molin, che ha appena finito la conferenza stampa, ha confermato che si tratta di un atto terroristico e A questo titolo è stata aperta un'inchiesta da parte della sezione appunto antiterrorismo della Procura di Parigi. Ma sì, molto, molto, molto brevemente, questa mattina verso le 10 un uomo è entrato al Carousel du Louvre, che è la galleria, la zona commerciale che dagli ingressi di Rue de Rivoli e delle Tuileries poi si spinge fino all'ingresso del museo sotto la piramide di Pei, ha aggredito una pattuglia di militari con un macete. I militari hanno reagito sparando e lo hanno gravemente ferito, è stato operato a lungo all'ospedale Pompidou, dovrebbe essere attualmente in rianimazione e probabilmente sopravviverà e quindi potrà essere interrogato nei prossimi giorni. Dai primi elementi dell'inchiesta risulta appunto che si tratterebbe di un egiziano di 29 anni che è arrivato il 26 gennaio a Parigi da Dubai con un regolare visto turistico per la zona Schengen, sembra incensurato, almeno lo è per i servizi francesi e quindi è uno sconosciuto a questo punto di vista. Si sa che questa mattina all'alba ha inviato un messaggio sui social network in cui parlava genericamente di guerra implacabile e questi sono però gli elementi dell'inchiesta, una vicenda che rimane francamente ancora un pochino scura, perché pare abbastanza strano che qualcuno parta da Dubai e organizzi molto in anticipo la richiesta del visto per venire a Parigi per attaccare con un macete senza altre armi, perché negli zaini che portava non c'erano né armi né esplosivi, dei militari. Non so, una vicenda per il momento un pochino strana, sicuramente le indagini dei prossimi giorni chiariranno un po' qualche altro particolare. Un po' meglio. Grazie Marco Mussanè da Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco. E da Parigi agli Stati Uniti, dove il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran in seguito al recente test missilistico di Teheran. Il ministro degli esteri Zarif, iraniano, ribatte che l'Iran è indifferente alle minacce. Non inizieremo mai una guerra. Vediamo se gli altri possono dirlo. Trump, tra l'altro, rivede la riforma di Wall Street, dice ci devono essere paletti meno rigidi e quindi cambierà la legge Dodd-Frank voluta da Obama dopo il crack Lehman. Trump sta rivedendo anche le politiche americane su Cuba e fra l'altro c'è questa notizia di un comunicato di Al-Qaeda secondo il quale, nel quale si legge che il presidente Donald Trump è un incosciente perché ha acceso la fiamma della jihad con il raid in Yemen che ha ucciso dei civili. Questo lo riporta il Washington Post. E poi i rapporti con gli Stati Uniti e della crisi dell'immigrazione, questi due temi hanno dominato il vertice europeo informale di oggi a Malta, dove ha fatto capolino anche il nodo dei nostri conti pubblici. Pieno sostegno europeo all'accordo italo-libico sui migranti con l'obiettivo di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale. Roma porta a casa il minimo risultato possibile da Malta, dove gli altri leader si limitano ad applaudire l'intesa siglata da Gentiloni e Sarraj, dando il via libera ai 200 milioni aggiuntivi per il Nord Africa proposti dalla Commissione europea. Dal testo delle conclusioni sparisce il controverso paragrafo sulla riforma del regolamento di Dublino, sul quale dice il premier Gentiloni aleggiano tensioni diplomatiche, e si evita anche la mina del fallimento dei ricollocamenti per i quali l'Italia pretende il rispetto degli accordi. Gentiloni riassume così la discussione. Certamente oggi è stato fatto un passo avanti sul piano di intervento dell'Unione Europea sul tema migratorio in Libia e in Africa. Il premier allontana l'ipotesi di una procedura di infrazione europea sui nostri conti pubblici e si aspetta anzi un esito positivo per i negoziati in corso. Non credo che ci siano elementi che vanno in questa direzione. Proprio mentre da Bruxelles fonti comunitarie mandano a dire che servono maggiori dettagli in merito alle misure che Roma ha inviato in Europa per correggere la rotta. Convitato di pietra al vertice Donald Trump, il più esplicito è stato il presidente francese Hollande. Le pressioni di Trump sull'Unione Europea sono inaccettabili, accusa Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la politica, quella dei partiti, va avanti il confronto sulla legge elettorale, ma anche quello all'interno del PD sul futuro del governo. Primarie e poi elezioni anticipate, oppure congresso e voto nel 2018. Sono i due scenari ipotizzati da Matteo Renzi, che in un'intervista al Corriere prova a trovare una mediazione con la minoranza Dem e annuncia anche che potrebbe non ricandidarsi a premier. Tra le forze politiche nel frattempo continua il confronto sulla legge elettorale in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Consulta sull'Italicum. Un accordo al momento non sembra a portata. Sempre dal PD Franceschini rilancia il premio alla coalizione, un'idea che piace a Forza Italia e ai centristi. Subito al voto insiste invece il leghista Salvini. Capisco che nel PD ci siano posizioni molto varie ed eventuali, per quanto ci riguarda meno si parla di legge elettorale prima si vota meglio. A dire no al premio alla coalizione è invece il Movimento 5 Stelle. È l'ennesima scusa per coalizzarsi contro di noi, attacca Di Maio, che accusa i partiti di voler tirare a campare fino al 2018. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il delitto di Vasto, interrogatorio in carcere domani per Fabio Di Lello. Nel giorno in cui a Vasto ci sono stati i funerali di Italo De Lisa, il 21enne da lui ucciso a colpi di pistola. Noi credevamo che si ammazzasse lui. Credevamo si ammazzasse lui. Era tale il dolore che la madre di Fabio Di Lello lo dice con chiarezza. Troppa sofferenza e la presunta lentezza della giustizia, che secondo alcuni ha esasperato tutto, non c'entra. Voleva vedere il ragazzo che aveva investito e ucciso la moglie in carcere, ma il capo della procura di Vasto, Giampiero Di Florio, riferisce di tempi al contrario rapidi. In 110 giorni abbiamo completato le indagini preliminari e nell'arco di 7 mesi dall'accadimento del fatto era già stata fissata l'udienza preliminare. E allora ci chiediamo, ma poteva bastare una pena esemplare a chi soffriva tanto da sentire il bisogno di andare ogni giorno sulla tomba di quella moglie persa troppo presto, anche per mangiare lì parlando con lei? Forse le indagini dovrebbero oggi concentrarsi sulle provocazioni, sui manifesti comparsi in città, sui gruppi Facebook che incitavano alla vendetta, su quell'assurda spirale di odio e provocazione dei frustrati della rete, dei senza vita che davanti ad uno schermo cercano di vivere la vita degli altri. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo vi dicevo, su questo caso poi cercheremo di riflettere nel corso di Effetto Notte con una psicologa e criminologa per capire che cos'è che porta una persona a questi gesti estremi e se in qualche modo può essere stato spinto, come si legge da più parti, anche da un odio e una specie di incitamento che già cominciava a crescere nel paese. Adesso parliamo dell'emergenza smog, si fa pressante da domani in 3 città italiane, Milano, Torino e Firenze, e nell'intera regione dell'Emilia-Romagna scattano i nuovi divieti per i veicoli più inquinanti, misure che da sole non bastano, così ammette l'assessore alla mobilità e ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, al microfono di Roberta Pellegatta. Oggi siamo al settimo giorno di superamento dei 70 microgrammi. Servono misure strutturali ed è per questo che noi chiediamo interventi duraturi, non solo nell'emergenza. Noi abbiamo rimportato area C e quindi dal 13 di febbraio in area C non entreranno gli Euro 4 diesel. In più, proprio in questi giorni stiamo consegnando i contributi per il bando sui filtri. A ottobre avevamo fatto un bando di 1 milione di euro per contributi ai veicoli commerciali diesel per mettere il filtro antiparticolato. Chiediamo che con Regione di fare un altro bando, che anche Regione metta delle risorse. Ecco, appunto, occorrerebbe un coordinamento regionale che non arriva. Siamo un po' deboli, ecco, abbiamo fatto il primo passo del protocollo, ecco, ci vuole qualcosa di più. E poi bisogna lavorare anche sulle caldaie. Anche qui ALER e Regione potrebbero fare lo stesso sul loro patrimonio. E adesso parliamo di consumi, perché cambia il paniere dell'Istat per il calcolo dell'inflazione, prende atto delle nuove abitudini di spesa, dei cambiamenti culturali degli italiani, e quindi entrano 12 nuovi beni e servizi, fra i quali la cucina vegetariana e quella vegana, frullati salutisti, asciugatrici, birre artigianali, smartwatch, orologi per il fitness, action camera, quelle per fare le riprese velocemente in movimento. Intanto, balzo dell'inflazione a gennaio 2017 per l'Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su dicembre e dello 0,9% su gennaio 2016. E poi, per chiudere anche questa buona notizia che riguarda il cantante americano Michael Bublé, il figlioletto avrebbe sconfitto il cancro. La buona notizia è stata data dalla zia del piccolo Noah, figlio del cantante e dell'attrice Luisana Lopilato. Lo scorso novembre al piccolo era stato diagnosticato un cancro al fegato, motivo per il quale il cantante aveva annullato tutti i suoi impegni. Secondo quanto pubblicato dalla stampa argentina, addirittura il bimbo sarebbe completamente guarito. Bene, direi con questa buona notizia possiamo adesso avvicinarci tra pochissimo agli approfondimenti. Come sempre con Effetto Notte c'è la viabilità per aggiornare chi sta viaggiando e poi ritorniamo sulla politica. È anche venerdì, l'ultimo giorno della settimana per Effetto Notte, quindi tempo di bilanci della politica italiana. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666. C'è per esempio Gaetano che scrive: nei vecchi tempi 5 Stelle per una vicenda come questa avrebbero crocifisso in sala mensa i malcapitati, ora che vengono coinvolti sono ragazzate. Francesco dice: ammettiamolo, non capita spessissimo che uno stipuli polizze da decine di migliaia di euro a vantaggio, ma all'insaputa altrui, fosse anche per amicizia. Intanto il destino burlone vuole, dice, che beneficiario del nobile e romantico gesto non sia un Pinco Pallino ma la futura sindaca di Roma. Poi c'è invece chi dice: non sanno più come ostacolare il Movimento 5 Stelle, lo Stato è mafioso, li teme, la vecchia feccia politica non vuole persone oneste al comando, forza Raggi, avanti tutta. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, le notizie, io Roberto Giordano già ve le ho raccontate come sempre in sintesi all'inizio, quindi seguite sempre Effetto Notte puntualmente dalle 21 alle 22 se volete essere aggiornati su tutte le cose più importanti dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, perché lo sapevate se avete seguito Effetto Notte. Allora, tra pochissimo vi farò sentire, alzeremo il volume sulla 7, c'è la sindaca Raggi che sarà intervistata a breve da Mentana. E intanto per le vostre interazioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Abbiamo chiuso poco fa tra chi diceva se fosse successo a qualcun altro quelli del Movimento 5 Stelle lo avrebbero linciato, e qualcun altro che invece dice questa è la vecchia feccia politica che non vuole persone oneste al comando, e quindi Raggi avanti tutta. Direi prima di tutto prima di fare il bilancio della politica italiana di passare a ricordarvi quali sono i fatti principali se non avete acceso puntualmente alle 21. La sindaca Raggi non si dimette, Grillo è con me, dice Romeo, la difende, per lei ho fatto due polizze vita ma solo per stima, i PM dicono non c'è comunque reato. Gentiloni, l'Italia non rischia la procedura di infrazione a proposito del negoziato con l'Unione Europea, e intanto c'è sostegno dell'Europa all'accordo Italia-Libia sui flussi migranti. Urla Allah Akbar a Parigi, aggredisce i militari con due macete al Louvre di Parigi, un egiziano di 29 anni, Hollande dice un attacco terroristico, anche se molte cose sono ancora da chiarire. Trump, nuove sanzioni per l'Iran, annuncia e cambia i rapporti con Cuba, mentre Al-Qaeda accusa Trump di voler fomentare la jihad. Legge elettorale, scontro nel PD sulle primarie di coalizione, il presidente del PD Orfini dice è contro la proposta di Franceschini, intanto Di Maio commenta puntano a raggiungere il 2018. Polemiche sul diritto di vasto, il ministro della giustizia Orlando difende la procura, dice no al populismo e per l'accusa sarebbe omicidio premeditato. Poi ne parleremo, e cambia anche il paniere dell'Istat, quindi i consumi degli italiani, entrano anche la dieta vegana e smartwatch. Allora, diciamo che questa settimana nel bilancio politico avremmo dovuto parlare fino a due giorni fa soprattutto del questo dibattito tesissimo sul voto anticipato o meno, tra chi spinge per andare subito al voto, chi trattiene. Anche Napolitano è intervenuto su questa cosa dicendo che nei paesi civili la legislatura arriva sino in fondo, però tutto ciò e anche tutti i tormenti, le convulsioni all'interno del PD, scissioni, non scissioni, Renzi che è ritornato a parlare ieri, però tutto questo è stato praticamente subissato dalla vicenda Raggi, nel senso che ieri c'è stato il primo interrogatorio a Roma della sindaca. E da questa cosa è venuta fuori, nel senso l'hanno pubblicata Fatto Quotidiano e L'Espresso, questa notizia di una polizza, che poi in realtà i PM chiariscono che sono due, che uno dei suoi due bracci destri, che poi dopo se n'è andato anche lui, Salvatore Romeo, che era all'inizio un dipendente dell'amministrazione capitolina, aveva fatto una polizza a favore di due polizze a favore di Virginia Raggi quando ancora lei era consigliera comunale e si stava preparando a candidarsi come sindaca. Una volta diventata sindaca lo ha promosso a capo della sua segreteria e ha triplicato praticamente lo stipendio. Sentiamo adesso Virginia Raggi in questo momento sulla 7 cosa dice. Sono senza parole, glielo dico sinceramente. Credo che tra i Allora, innanzitutto parliamo di uno strumento che è legale, questo mi è stato chiarito. Cioè la polizia. Però credo che la cosa più spiacevole di tutta questa vicenda sia quella di non essere stata informata e di non averlo saputo, perché chiaramente gli avrei chiesto, come gli chiederò quando lo vedrò, già lo dico adesso se mi sta guardando, di cambiare immediatamente l'intestazione del beneficiario, perché una cosa del genere non la voglio, mi mette l'ansia anche il solo pensiero. Quindi... Cioè, ha paura di doverlo chiamare tutte le mattine, stai bene? Sì, sì, io non voglio assolutamente. La polizza sarebbe, no. I soldi sarebbero andati a lei una volta morto, Romeo, quando uno fa una polizza sulla vita, no? Questa è poi una vicenda che della quale parlerò con i miei legali e parleremo con lui. Però mi scusi, Sindaco Raggi, io non sono un inquisitore, non sono un inquirente. Però ciascuna persona che in queste ore si è messa nei suoi panni ha pensato questa cosa: se fosse successo a me, io appena uscito dall'interrogatorio chiamavo Romeo. Lei perché non l'ha chiamato? Perché ero arrabbiata, ero molto arrabbiata, ero sconvolta. Io veramente non avevo idea di che cosa fosse questa cosa. Ho parlato a lungo con i miei legali, abbiamo cercato di capire. E ha già chiarito che non ne sapeva nulla di questa vicenda. L'hanno chiamato loro per me. Senta, sui giornali di questa mattina e ancora questo pomeriggio, attraverso un altro post su Facebook di un ex eletto che aveva un certo ruolo a Torino. Ho un'altra polizza? Non lo dica subito. 5... No, a parte che le polizze di cui si parla sono anche altre. Però si è detto, attenzione, quello è uno strumento per finanziare surrettiziamente la campagna elettorale e prima ancora la campagna interna ai 5 Stelle. Allora, premesso che questo non è proprio uno strumento che il Movimento 5 Stelle conosce o accetta, perché noi accettiamo micro donazioni da tante persone e così ci finanziamo, donazioni volontarie, peraltro trasparenti, eccetera. Ma soprattutto, vede, io non ho preso un soldo e non Barbara Fiammeri, commentatrice del Sole 24 Ore, come commenti questi ultimi sviluppi, diciamo, della vicenda romana? Cioè, al di là del fatto in sé, secondo me la gravità della cosa non sta tanto appunto nella polizza, nel fatto che non abbia ovviamente nessun carattere penale, ma cioè, ci sono troppe cose che il sindaco di Roma ha detto di non sapere, cioè non è la prima volta che il sindaco di Roma ha detto di non sapere o si è dimenticata di comunicare. Il problema è questo, secondo me, cioè c'è una responsabilità che è politica. Cioè ti riferisci al caso Muraro, al caso Marra? Mi riferisco al caso Muraro, al caso Marra, ma fin dall'inizio, anche quando lei disse che non aveva messo nel curriculum l'esperienza, il suo lavoro presso lo Studio San Marco. Studio San Marco che poi appunto è vicino a quel mondo della destra, a cui è vicino anche Marra, Insomma, un po' ora, senza voler arrivare a fare complottismo, però insomma ci sono tanti indizi e tante situazioni che si ripetono. Allora, per me c'è un problema di responsabilità politica verso chi l'ha eletta, prima ancora che verso il Movimento 5 Stelle. Quindi stai parlando dei cittadini, tu? E certo, dei cittadini, perché per me il sindaco è anzitutto rappresentanza di chi lo ha eletto e quindi dei cittadini romani. Abbiamo assistito in tutti questi mesi a una serie di vicende a Roma che poco hanno a che fare sinceramente con la politica, cioè non abbiamo visto uno scontro anche duro, anche all'interno del movimento, su vicende specifiche, ad esempio quello sulle Olimpiadi, quindi sul merito di questioni specifiche, che ci sta, perché non c'è un pensiero universale. Invece quello che è pesante è il succedersi di assessori, le dimissioni non spiegate, promozioni, anche questa cosa della promozione del fratello di Raffaele Marra. Ma a parte il fratello di Raffaele Marra, anche è di Romeo, cioè Romeo che è un dipendente quello del comune polizze. Quello delle polizze, e che poi viene preso dalla Raggi, portato all'interno del suo staff e gli viene triplicato lo stipendio, e quello stipendio viene in parte ridotto da 120, mi sembra, o 110, passa a 90, dopo che la cosa diventa pubblica, e peraltro diventa pubblica anche perché viene da dentro il movimento la denuncia di questo episodio. Quindi, Barbara, sentiamo scusa un attimo ancora che cosa dice Virginia Raggi. Queste sono dichiarazioni molto gravi. Evidentemente si era rotto il vostro rapporto. Cioè. Io penso che quando qualcuno dichiara qualcosa deve anche in qualche modo poterlo provare, altrimenti è diffamazione. O della Lombardi. Io mi sono limitata ad applicare un parere di Cantone che chiedeva di ricondurre quel contratto a una determinata fattispecie anziché a un'altra. Se questo ha determinato la rottura, io non posso che prenderne atto. Il sindaco Raggi, lei sa benissimo che questo è un altro degli aspetti che si legano a una sua decisione forte, dura, cocciuta, secondo alcuni. Non toccatemi Romeo e Marra. Ora, è inutile dire che parlarne oggi non è proprio il giorno ideale, con lei che è stata sotto interrogatorio molte ore proprio per causa di Marra e contemporaneamente ha scoperto anche questa cosa di Romeo. Non sono immagini i suoi due beniamini per questa giornata, perlomeno. Ma però ci vuole spiegare, forse non l'ha mai fatto, perché e come è entrata in contatto con queste persone, perché se le è coltivate o l'hanno coltivata così tanto da diventare un gruppo fino a essere i tre quarti dei famosi. Una serie di vegetali, praticamente, c'è una coltivazione. Vabbè, non c'è niente di male, spero che lei abbia un pollice verde. Però purtroppo no. Quello che le dico però è se sono entrati nella famosa, se siete tre quarti della famosa chat, i quattro amici al bar, vuol dire che c'è un patto forte. Perché questo patto con queste persone? Con Frongia, comprensibile. Eravate metà, lei e Frongia, del gruppo consiliare precedente nella consigliatura Sottomarino. Vabbè, quindi sentiamo cosa risponde. Poi perché gli altri due? Come? Romeo lo abbiamo conosciuto nel 2013 quando siamo entrati. Lui era già un attivista del Movimento 5 Stelle ed era molto, molto stimato nel tavolo bilancio. Lei lo sa, probabilmente l'avrà sentito, insomma. Siamo cittadini normali, entrano nelle istituzioni, però ci facciamo aiutare da tanti altri cittadini esperti di varie tematiche, per cui lui ci ha aiutato tantissimo quando eravamo in consiglio, noi quattro, i quattro, Raggi, Frongia, De Vito, Stefano, e ha aiutato molto anche i 29 consiglieri municipali su tutte le tematiche legate al bilancio e alle partecipate, che erano poi i suoi temi. Nel tempo si è sicuramente consolidato questo rapporto tra noi, tra tutti e quattro, e ne è nata anche una grande amicizia e una stima reciproca, per cui noi Romeo lo abbiamo conosciuto così. E poi durante la campagna elettorale lui ci ha presentato Marra, che invece era il suo capo, è stato il suo capo quando, durante un periodo nel 2013 quando lavorava al Dipartimento Partecipate. Quindi Marra è un regalo di Romeo. Quindi Barbara è sprovveduta, continua a essere sprovveduta la sindaca rispetto a allora, cioè io non so quale sia la cosa più grave, cioè stiamo parlando di Roma, non è che stiamo parlando di un paesino di 10.000 abitanti, e cioè il fatto che il sindaco della capitale non sappia con chi ha a che fare, sinceramente è preoccupante, perché adesso vorrei anche sottolineare il fatto che stiamo parlando di due figuri, cioè Marra e Romeo, definisco figuri perché comunque non persone di, non stiamo parlando appunto di persone che avessero già un loro spessore riconosciuto, quindi si presume che se persone che non hanno un loro spessore riconosciuto te ne servi, quantomeno tu dovresti essere in grado di valutarli. Se non sei in grado di valutarli, c'è da chiedersi insomma se sia capace a governare, perché poi la domanda, per questo dicevo che il problema è politico, prima ancora che gli scandali, le questioni giudiziarie, il problema è politico, cioè di chi sta amministrando la città, e la domanda è in grado di amministrare una città come la capitale? Fino ad oggi noi dobbiamo ritenere di no, il giudizio probabilmente dei romani sarebbe negativo nei confronti della sindaca Raggi, perché fino adesso ha dimostrato che sia sulle vicende concrete della città, sia su tutte le altre questioni che sono emerse nel corso di questi mesi, ci consegnano un bilancio disastroso. Questo è un fatto, cioè qui non ci sono le interpretazioni se io la polizza sapevo di averla o non averla. Il fatto è questo: o è una persona che non è in grado di valutare con chi lavora, oppure è sprovveduta, oppure invece sa con chi lavora e lo fa scientemente. Non so quale delle due cose sia la peggiore, sinceramente. Qualunque sia delle due cose, Barbara, sul blog di Grillo, poi, rispetto a dopo le sue dichiarazioni, quello che ha scritto, che ha spiegato sul blog, sono arrivati moltissimi commenti, per lo più tutti, quasi tutti positivi, di sostegno nei suoi confronti, qualcuno magari molto così tagliente, pochi, ma la maggior parte invece continua a dirle vai avanti. Anche chi non è proprio contrario dice, per esempio Simone, fa bene a non dimettersi, è una sprovveduta messa al vertice di una città, purtroppo marcia fino al midollo, ma l'hanno voluta e deve cercare di realizzare il suo programma. Poi c'è qualcun altro che invece la difende strenuamente. Sì, ma il punto è proprio questo. Il punto è proprio questo. Cioè che Roma fosse una città marcia lo sapevano tutti, nel senso c'erano inchieste giudiziarie, numerose inchieste giudiziarie, tanto sulle precedenti giunte di centrodestra quanto quelle di centrosinistra, quindi non è che è una novità che Roma fosse marcia. A maggior ragione, secondo me, c'è stato un errore politico da parte del Movimento 5 Stelle, ed è un errore che rischia di ripetersi, cioè il fatto che il cittadino, il signor Nessuno, possa, in quanto persona, come dice, con la fedina penale pulita, amministrare una città o il governo della nazione. Io penso che non debba funzionare così, penso che non basti un click per decidere chi fa il sindaco di Roma, penso che le persone che vanno ad amministrare una grande città o un grande paese debbano avere alle spalle un curriculum pesante, che non può essere quello di aver lavorato in uno studio legale, peraltro chiacchierato per un certo tempo della propria vita, e di non aver fatto altro nella propria vita. Però l'hanno votata, Barbara, sentiamo cosa sta dicendo in questo momento. Questo abbiamo potuto rilevare quando lavorava lì dentro, poi le vicende hanno descritto tutta un'altra un retroscena del quale non eravamo assolutamente a conoscenza. Abbiamo preso le distanze da questa persona e diciamo che questa è un po' una parentesi che appartiene al passato. Scusi, devo fare una domanda a questo riguardo. Non gli ha ancora chiesto conto della famosa polizza che lasciamo da parte? Beh, ma mi almeno, sembra che lui abbia chiarito ma almeno abbastanza. Io ne so sicuramente meno di lui. Ecco, però almeno sul fatto che le ha presentato Marra, gli ha chiesto conto a Romeo? Lui era molto mortificato per questa cosa, perché neanche lui si aspettava una cosa del genere. E sentito Barbara, ma adesso garantista, lo era già prima. In chiusura, insomma, un po' di domande rimangono, però sta rispondendo, la vedo veramente serena, veramente sicura di sé, Barbara, una tenuta, l'ho già detto varie volte, psicologica incredibile comunque sia. Ripeto, capisco che il problema non è la tenuta psicologica di Virginia Raggi, il problema è l'amministrazione della città. No, questo è chiaro, è chiaro. Quindi il problema è che in questo momento la debolezza del sindaco, cioè non ci dimentichiamo tutto quello che è successo, le dimissioni degli assessori, il fatto che all'interno del Movimento 5 Stelle sia partita una guerra interna, in cui una guerra interna che faceva leva proprio sul fatto di Marra e di Romeo, non è che faceva leva su altro. Quindi, cioè, come dire, le avvisaglie dall'interno del movimento, dalla Lombardia in particolare, erano partite in modo chiaro, si erano anche espressi in modo pubblico e sono stati silenziati, perché vediamo che siano stati silenziati. Quindi è evidente che Grillo non si può permettere di perdere Roma in questo momento e fino a quando non si voterà, perché un fallimento di governo a Roma significherebbe la conferma dell'incapacità del Movimento 5 Stelle di non poter governare. Quindi Grillo, immagino, stia lavorando alacremente per sostenere la giunta, magari aiutandola come ha fatto anche recentemente con gli innesti che sono stati fatti da Milano, e speriamo che le cose vadano meglio, però certamente i presupposti fino adesso non lasciano ben sperare. Barbara, nel salutarti ti dico, se tu mai volessi fare una polizza a mio favore, almeno fammelo sapere, ecco. Senz'altro, ma non ho i soldi per fartela. Ti voglio bene lo stesso. Grazie Barbara Fiammella del Sole 24 Ore. Buon fine settimana a te. Direi che ci fermiamo. Stanno arrivando molti vostri messaggi. Pensa se Marino avesse avuto un problema del genere. Oppure dice questo ascoltatore Guido sulla pagina Facebook di Effetto Notte che è tutta una baraonda e che la magistratura, non solo a Roma, dovrebbe occuparsi di cose serie. Ci risentiamo tra pochissimo e andremo invece sulla vicenda di Vasto. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente della vicenda Raggi. Sentiamo ancora un passaggio, sempre sulla 7. Io quando i fatti accadono rispondo sempre, però sulle ipotesi, per favore. Avete protestato con durezza nelle vicende che hanno riguardato Marino, che certo. Poi all'atto giudiziario, come sa, si sono state considerate non meritevoli di processo o di condanna. Quanto mi sembra che la procura abbia chiesto... Però, no? Lei sa, lei è avvocato, però attenzione, sa come stanno le cose. Ha su fatto quello... bene a fare l'esempio di Marino, perché vede, noi abbiamo... ci siamo limitati, possiamo dire così, a fare un accesso, anche un po' insidioso se vuole, su tutta quella vicenda degli scontrini. E poi noi di Marino chiedevamo una cosa al nostro avversario, il partito di maggioranza, il PD. Noi chiedevamo di venirlo a sfiduciare in aula, sulla base, a 2 anni di distanza dall'inizio del mandato, sulla base dei suoi risultati politici. Il nostro avversario, che era il partito di maggioranza, il partito del sindaco, non si è minimamente presentato in aula, probabilmente ha avuto paura di non avere i numeri, e ha preferito sfiduciare il sindaco dal notaio, con un atto vile, perché se c'è una crisi si porta in aula e si risolve in aula. Sa cosa si dice? Che la differenza vera tra lei e Marino è che lei ha il sostegno del leader, Grillo. Marino, il primo che non lo voleva più vedere era... Renzi. E su questo direi di chiudere con questa vicenda per ora, perché adesso ci spostiamo su un altro tema. Intanto vi ricordo velocemente le notizie più importanti e poi approfondiamo con il prossimo ospite. Roma, appunto, dopo la vicenda delle polizze a suo favore, Virginia Raggi assicura, non mi dimetto, Grillo è con me, Romeo la difende, dice le polizze le ho fatte per lei ma solo per stima e per i PM comunque non c'è reato. Francia, un egiziano incensurato, poi fermato, l'uomo che al grido di Allah Akbar con un coltello ha forzato l'ingresso del Louvre a Parigi, per il governo è un atto terroristico. Italia-Libia, accordo incoraggiante, da Malta il sostegno dei leader europei all'intesa sui migranti. Stati Uniti, Trump impone nuove sanzioni all'Iran, l'ira di Teheran, cambiano anche i rapporti con Cuba e Al-Qaeda, dice Trump è incosciente, ha acceso la fiamma della Jihad. Legge elettorale, scontro nel PD sul premio di coalizione, polemiche sul delitto di Vasto, di cui parleremo tra pochissimo, smog, nonostante la pioggia, l'allerta resta alta, nuove misure a Milano e Torino. Ne avete sentito parlare molto in questi giorni di questa vicenda di Vasto, una tragedia nella tragedia è stata definita, perché non solo è morta una giovane donna investita da un uomo lo scorso luglio e quindi strappandola alla sua vita, all'amore di suo marito, dei suoi genitori e alle sue, i suoi sogni, le sue prospettive, ma è successo 2 giorni fa che l'uomo che è rimasto vedovo di lei ha deciso di farsi giustizia da solo, evidentemente era ossessionato dall'idea che giustizia non sarebbe arrivata e ha aspettato il 22enne che aveva investito la moglie uccidendola e lo ha ucciso con una pistola, per poi lasciare la pistola sulla tomba della moglie e costituirsi. Lui si chiama Fabio Di Lello, adesso è in carcere, è controllato a vista perché potrebbe fare un gesto estremo. L'altro, l'uomo che è stato ucciso, il 22enne, Italo De Lisa, c'è stata l'autopsia, è stato verificato che è morto sul colpo, colpito da questi proiettili. E adesso che cosa succede? Ma intanto Giovanni Cirella, che è difensore di Fabio Di Lello, dice Italo De Lisa, dopo aver ucciso Roberta nell'incidente, non ha mai chiesto scusa, non ha mai mostrato segni di pentimento, anzi era strafottente con la moto, dava fastidio al marito, quando lo incontrava accelerava sotto i suoi occhi. E poi la difesa di De Lisa era stato che al momento dell'incidente Roberta Smargiassi non si era messa bene il casco, però l'avvocato di Lello dice no, in realtà una perizia ha fatto piena luce sulle sue responsabilità. Evidentemente si dice che alimentare questa rabbia del vedovo, dell'uomo rimasto senza la moglie, oltre alla sua disperazione, al fatto che era innamoratissimo, è stato probabilmente anche un video che è stato postato su WhatsApp, ha fatto il giro dei social e molti che sia in paese sia sui social, insomma, cioè lo inneggiavano un po' a farsi giustizia da solo. Ne parliamo con Roberta Sacchi, che è psicologa e criminologa. Buonasera, Sacchi. Buonasera. Secondo lei che cosa può aver spinto? Cioè è questa voglia di vendetta, poi che cosa produce in una persona? Sente di aver fatto finalmente quello che doveva fare? Si sente in pace con se stessa? Perché l'avvocato in realtà oggi ha detto è lì, pare che non abbia ancora realizzato effettivamente quello che ha fatto. Ma sicuramente il movente è la vendetta, su questo non c'è dubbio, però in questo terribile omicidio, gravissimo omicidio, concorrono diversi fattori. Il primo è sicuramente una vulnerabilità di questo Fabio, di questa persona che ha imbracciato una pistola e ha sparato a sangue freddo ad un ragazzo di 22 anni. Per esempio mi aveva molto colpito il fatto che lo descrivessero come un ragazzo molto cambiato, che spendeva tantissimo tempo sulla tomba della moglie, sì, mangiava lì, quindi è evidentemente una persona che era in uno stato di prostrazione fortissimo, ma questo naturalmente dopo l'evento che gli è accaduto. Il secondo elemento forte invece dal punto di vista criminologico mi sembra, ed è il tema del momento, questa campagna d'odio, questa clac di morbosi, come l'ha chiamata il procuratore stesso di Vasto, che ha incitato questo ragazzo a farsi giustizia da solo. Io credo che questi due elementi hanno concorso a determinare questa immane tragedia. Senta, qualcuno dice probabilmente, non so, uno psicologo, uno psichiatra doveva intervenire prima, qualcuno lo doveva assistere dal punto di vista psicologico, gli stessi che hanno fomentato magari dal paese stesso o tra i social, che sappiamo ormai come funzionano così senza controllo, ma lo stesso abitanti del paese magari invece che continuare a sostenerlo in questa sua ossessiva ricerca di giustizia forse dovevano aiutarlo in altro modo, cercare di consolarlo, di distrarlo, di col senno di poi, che cosa si può fare in un caso come questo? Col senno di poi si può dire tutto. Quello che mi ha colpito, leggevo stasera la notizia, diciamo, di questa sera, sembra che si fosse creato un gruppo Facebook di abitanti, di ragazzi di Vasto, con 1500 iscritti, come si chiamano, associati, ecco, amici, che inneggiavano alla violenza verso questo ragazzo. Insomma, in una città come Vasto che ne fa 40.000, voi capite che è un numero esagerato. E proprio su questa sua domanda o invito a esprimermi, mi veniva in mente invece la vicenda, per esempio quella di Grosseto, in cui un ragazzino uscito da un rave party ha ucciso un carabiniere. Lì c'è una storia tutta diversa, nel senso che addirittura la vedova di questo carabiniere è diventata amica della mamma di questo ragazzo, nonché di questo ragazzo che continua ad andare a trovare in carcere. Quindi voglio dire, i modi per elaborare il lutto sono tanti, certo, diversi. Si arriva da un estremo, che è quello di Vasto, all'altro, per carità, con tanto di inchino, però capite bene che evidentemente c'è aiuto e aiuto possibile, che non è sempre solo quello degli esperti, attenzione, quando serve sì. Probabilmente anche in questo caso, immaginiamo, prima abbiamo sentito in un servizio la voce disperata della madre, probabilmente neanche giovanissima, no? Visto che lui ha 34 anni, quindi probabilmente non sapeva neanche lei come aiutarlo, anzi ha detto pensavamo che si sarebbe ucciso lui prima o poi, no? Quindi immaginavano che questo estremo stato di prostrazione, come diceva lei, di depressione, di disperazione, a qualche gesto lo avrebbe portato. Sebbene il salto non si capisce mai, detto da un esperto è quasi drammatico dirlo, però effettivamente poi le intenzioni suicide delle persone sono anche difficili da discernere, quindi mi sentirei di togliere un peso ai familiari da questo punto di vista. Senta, lei in un caso ipotetico come questo, che cosa consiglierebbe di fare alla persona stessa, per quanto sia difficile, e anche a chi è intorno? Guardi, la prima indicazione che sento di dare è all'avvocato. L'avvocato è una persona che in questo momento è molto vicina ed è probabilmente la persona che in questo momento può stargli più vicina. Io vedo che questo avvocato continua a esasperare i toni, nel senso che continua a reclamare, a recriminare delle provocazioni che questo ragazzo avrebbe ricevuto, cioè che accelerava con la moto di fronte agli occhi di... evidentemente sono cose riferite da questo povero Fabio, mi sento di dire povero nonostante la drammaticità del gesto, però probabilmente erano anche delle paranoie o insomma percezioni alterate della realtà, no? Un avvocato deve avere anche questo ruolo, cioè non di montare il proprio cliente. Ho visto che per esempio c'è stato addirittura un intervento del presidente dell'Ordine degli Avvocati, credo proprio della regione, se non sbaglio, un invito a moderare i toni sia agli avvocati, all'avvocato di Italo che all'avvocato di Fabio Di Lello, che in quel momento era avvocato di parte civile, no? Di parte civile, sì, per la moglie, a moderare i toni, perché spesso e volentieri si erano attaccati anche sui media locali, sì, è vero, portando un po' un'anticipazione del processo in televisione. Ecco, la raccomandazione che sento di fare in questo momento è allegale. Il legale in questo momento ha un ruolo strategico, un ruolo importante, deve avere un ruolo calmante. Chiarissima, la ringrazio Roberta Sacchi, grazie. Grazie a voi. Buona serata. Viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Prima delle notizie in pochi secondi vogliamo sentire ancora un passaggio della Raggi sulla 7? Novembre, dicembre, ho contato bene, gennaio. Beh, io ci metterei anche agosto ad abbondanza. No, esatto, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, bravo. E sta parlando dalla sua, quando siamo arrivati a gennaio, ha ragione anche lei, siamo arrivati a gennaio, a fine gennaio, adesso entro febbraio partono i lavori. Sa che cosa vuol dire? Che per la prima volta noi riusciamo a fare lavori che sono stati affidati con una procedura regolare a ditte che sono state le migliori che hanno partecipato a una gara. Io mi rendo conto che questo bene, vi ricordo tra l'altro le notizie più importanti. Stiamo parlando di Virginia Raggi, ha detto che non si dimette dopo questa vicenda delle polizze. Grillo è con me. Romeo, che ha fatto le polizze a suo favore, ex capo della sua segreteria, la difende, dice: per lei ho fatto due polizze per la vita, ma solo per stima. E PM assicura comunque non c'è reato. Gentiloni dice che l'Italia non rischia la procedura di infrazione sui conti pubblici con l'Unione Europea, che sostiene l'Italia in questo accordo con la Libia rispetto al flusso nei migranti. Poi in Francia un uomo, un egiziano di 29 anni, è entrato al Louvre attaccato con un machete dei militari che lo hanno colpito poi colpi di pistola. Lui è ferito grave, mentre i due sono feriti lievemente. Hollande parla di un attacco terroristico. Trump annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e cambia rapporti con Cuba. Intanto c'è Al-Qaeda che scrive in un comunicato: Trump è incosciente perché in questo modo infiamma la Jihad. La legge elettorale, continua lo scontro nel PD sulle primarie di coalizione per quanto riguarda la politica italiana. E poi ne abbiamo appena parlato delle polemiche sul delitto di Vasto. Orlando difende la procura, la giustizia non è affatto lenta, è stata veloce, no al populismo. Intanto pare che l'accusa sia di omicidio premeditato per Fabio Di Lello. E per quanto riguarda il paniere dell'Istat che cambia, entrano fra i vari prodotti anche la dieta vegana e i smartwatch. Europa. Europa 24 notte. Parliamo dell'accordo di Malta sulla rotta libica dei migranti. Plaude all'esito del vertice di Malta l'europarlamentare Cécile Kyenge, che da anni si occupa del tema dei migranti. Avverte però: dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche su ciò che succede in Libia. L'Europa, aggiunge, vuole fermare i migranti, ma non fa i muri come Trump. Una grande conquista, cioè far capire alle istituzioni europee che esiste la frontiera sud, in un momento in cui molta attenzione era rivolta verso l'est o altre frontiere. L'Italia, che si è preso carico di tutto questo, ha messo sul tavolo, ha fatto capire che esiste un'altra frontiera e quindi che va affrontata insieme, perché soltanto insieme possiamo arrivare a delle risposte. Ora è l'inizio, perché ho detto, è l'inizio di una svolta, rimane ancora tanto da fare, molto da fare. E credo che è proprio su questa che noi dobbiamo battere molto forte, anche con l'Italia, facendoci anche alleati, insomma, e anche propositore. Attenzione su quello che succede all'interno di quei centri che sono stati denunciati anche dalle organizzazioni umanitarie come dei veri e propri lager. Andare oltre, passare a quella fase del piano per lo sviluppo, cioè che riguarda alla fine poi anche un affrontare un tema non semplicemente a livello locale, insomma, della Libia, ma anche andare fuori e verso tutta la regione con un piano di medio e lungo termine. Si sta parlando tanto di Trump, del presidente americano, del muro per tener fuori gli arrivi dal Messico. Non diamo l'impressione, con l'accordo con la Turchia piuttosto che con queste operazioni in Libia, in qualche modo di voler fare anche noi dei muri? La differenza con Trump è che lui chiude le frontiere, mette un muro e non comunica con gli altri fuori dalle sue frontiere. Ciò che sta facendo l'Unione Europea non è quella di non comunicare, cioè è quella di comunicare, rafforzare gli accordi di partenariato, di cooperazione internazionale, perché non è semplicemente una cooperazione a livello della gestione delle frontiere, va oltre, va anche su un progetti di sviluppo, va anche su progetti di integrazione delle persone, un accompagnamento verso camminare sulla stessa strada ma insieme, e quindi non è una chiusura, non è un muro. Il Parlamento europeo ha varie sfaccettature, questa politica della Commissione secondo lei troverà appoggio? Penso di sì, il Parlamento europeo è sempre stato molto lungimirante e anche molto forte, molto franco su tutto quello che ha sempre detto, collaborare, una collaborazione va bene, dobbiamo migliorare. Cioè il Parlamento europeo ha sempre messo avanti anche i punti deboli su cui migliorare, non il fatto di dire fermiamo, perché poi noi non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di persone. Stiamo parlando di persone che muoiono dentro il Mediterraneo, a cui dobbiamo dare una risposta, di persone che sono chiuse all'interno del territorio libico, a cui dobbiamo dare una risposta. La chiusura non è una soluzione, noi dobbiamo parlare, collaborare, casomai dobbiamo migliorare quello che è un inizio di una svolta. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazzon, portatore sano di sole di Trebi Meteo, caro Paolo, anche se avevo più la tentazione di interpellare la marmotta americana, Phil, sai che ogni anno dice... Adesso che andiamo avanti ancora con l'inverno, la marmotta. Sei quindi... settimane, ma tu confermi la marmotta? Confermi la marmotta. Guarda, purtroppo confermo comunque condizioni di maltempo, poi il grande freddo no, però per il nord Italia e per le regioni tirreniche sarà un weekend all'insegna delle piogge, che poi non saranno piogge continue, ma insomma l'ombrello sarà necessario. Però cara Roberta, anche se so che tu vuoi il sole, sono certo. Anche piogge di cui avevamo un gran bisogno, perché respiravamo aria sportissima, quindi va bene anche così. Comunque l'aspetto positivo è che invece per le regioni del Medio Adriatico e per il Sud Italia il tutto sarà molto più smorzato, quindi un po' di nuvole sì, ma piogge ben poche, insomma sono zone che hanno pagato un prezzo altissimo fino ad ora. Ebbene lì la situazione è più tranquilla, e addirittura tu pensa che al sud temperature vicine ai 20 gradi, aria quasi di primavera nelle regioni meridionali. E per il nord quando bisogna aspettare la primavera? La marmotta dice tra 6 settimane, quindi tutto guarda, febbraio e parte di marzo. C'è figurati. Beh, io temo però che febbraio sarà un mese più invernale che primaverile. Roberta, grazie di questo conforto, grazie a Paolo Corazzon. Tempo a te comunque sia, e noi invece ci riaggiorniamo poi brevemente alle 22:00.